Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Amici ascoltatori, buonasera. Chi vi saluta è solo Gesi, perché Antonio è assente anche stasera per motivi familiari. Comunque lo salutiamo. E, benissimo, allora siamo qui per la penultima puntata, ma poi ci saranno le repliche, sì, potrete sentirci ancora. Noi trasmettiamo sulla lunghezza d'onda 88,7 e 94,6. Potete ascoltare la trasmissione anche il giorno dopo, potete fare il podcast, cioè potete scaricarla e tenervela da conto. E, niente, volevo salutare, perché qui abbiamo anche un grande amico, un caro amico, e quindi prima di salutare chi voglio salutare, saluto il nostro architetto Fantin, col quale saluteremo insieme il nostro Emilio Gallina, la sua signora. Buonasera architetto. Buonasera Gesi, sempre bene e volentieri ci vediamo. Grazie, grazie, grazie. Sì, salutiamo proprio un saluto particolare a Emilio Gallina. Sì. Ecco, e poi salutiamo anche il nostro regista, il nostro coordinatore, e li salutiamo tutti sempre molto volentieri. Ma lei lo sa, architetto, che il mio regista è il mio angelo custode, più che regista. Sì, lo credo. Lo credo. Ormai. Beh, architetto, bentornato fra noi. E quindi stasera lei ci parlerà, a quanto abbiamo così sentito prima, di tante belle cose. Ma cosa dice? Prima ci ascoltiamo una canzone? Prima sì, ci ascoltiamo una canzone. Ecco, allora siamo in tema di vacanze, tema di montagna, tema di mare, e io come tema ho scelto il mare stasera. Ci ascolteremo Sergio Bruni in Il mare. Dalla bianca lucente scogliera, ogni sera di te parlo al mare, e tu al mare confidi ogni sera i pensieri d'amore per me. Il mare è la voce del mio cuore, è la voce del tuo cuore che ci unisce ancora. I miei baci a te, i tuoi baci a me, ce li porta il mare. Quando un giorno vicini saremo nella nostra casetta sul mare, ogni sera dal mare sentiremo la più bella canzone d'amore. Il mare è la voce del mio cuore, è la voce del tuo cuore che ci unisce ancora. I miei baci a te, i tuoi baci a me, ce li porta il mare. voce del tuo cuore che ci unisce ancora. Eccoci di nuovo in studio col nostro caro, simpatico architetto Fantin, al quale do subito la parola. A lei, architetto, e ci dica... Tocca a me. Io voglio dire due cose che sono già passate, due feste sono già passate, e poi parleremo di eventualmente... Di quelle da venire. Delle da venire. comincio che ci è mancato un amico caro che era il panettiere, il fornaire di Canizzano, Giorgio Pezzato, che ci dava sempre una mano sulle nostre segrete, sì. Portava il pane, a San Valentino faceva il pane a cuore, mi portava il vino, portava il formaggio, il salame, e poi ci dava una mano al banco. E ci è mancato e ho proposto al figlio di fare un ricordo, una messa di ricordo, lì su una... oratorio su una chiesetta che avevo visto da poco tempo, che avevo parlato con tutti i vari vicini, sempre a Canizzano, di fronte al cimitero, sì. Una strada a sinistra porta a una villa Morosini Schioppo. Ah, e io mi sono interessato un po' di questo schioppo, perché ho conosciuto uno schioppo in Piazza del Duomo, allora... mezzi lontani, parenti, qualcosa, e abbiamo parlato così. Ho conosciuto questo Mario Menoncello e abbiamo detto che il 2 giugno loro facevano questa messa, di inserire anche un ricordo appunto di Giorgio, del nostro amico Giorgio, sì. Loro ricordavano altre persone e facevano una messa col prete, col parroco di Canizzano, assieme a un prete ortodosso, perché la chiesetta è un oratorio di San Spiridione. Allora, questo San Spiridione, che io l'avevo sentito si nominare, ma non sapevo niente, proprio niente, era un pastore su un'isola vicino a Cipro, sulle isole Egee, sì, con di gregge, aveva di gregge, di pecore, insomma. Ah. Però si aiutava qualsiasi persona che c'era da aiutare, era una brava persona e un bravo personaggio. E viene ricordato sempre con la sua copula da pastore, quasi come perché... Si è interessato, avvicinato alla cultura cristiana, chiamiamola così, perché a quel tempo là c'era l'ortodossa e la cristiana, e aveva aiutato il vescovo di, non mi ricordo più se Aria, una piccola isola, sì, greca, sì. Insomma, l'aveva aiutato nelle sue funzioni e nei suoi attenzioni, insomma. E tanto bene, voluto da tutto il bene, che quando è morto il vescovo, il secondo vescovo che è morto, hanno fatto vescovo questo Spiridione. Che anche a Solone dice sì, hanno fatto bene farlo. Parliamo che è morto nel 350, perciò anno fa, parliamo anno fa. Nel 280, nel terzo secolo, qualche anno fa, insomma, tanto per capirci. Sì, sì. Quindi adesso questo qui è diventato il protettore dei pastori. È il protettore dei naviganti, il protettore dei pastori, e protettore praticamente in Candia, in Cipro, era stato riconosciuto anche dai veneziani, perché cioè Morosini, che parliamo di questa villa Morosini, sì. Era malato e questo santo, questo vescovo lo ha guarito. Perciò lui è stato sempre offerente a questa grazia che aveva ricevuta, tanto che ha portato una reliquia e una statua che è nera. Ma non è perché lui era nero, era perché le mummie erano tutte nere, insomma. Ah. Era una statua di legno che è lì nell'oratorio. Mentre la reliquia è tenuta in casa dal custode, da questo Mario Menoncello. Ho capito. Allora, il 2 giugno alle 6:30 di sera, parto alle 5 io con un amico, con pioggia e tempesta. e daremo a trovarli e diciamo sì, sì. Io avevo portato dei panini per dopo, c'era una piccoloni fresco. E a Sant'Angelo non c'era più pioggia e non, le strade non erano bagnate. Ma guarda. Siamo arrivati lì, c'erano 150-180 persone con delle panchine fuori, con l'altare fuori della chiesetta perché era troppo piccolo, è un oratorio, e con quel parroco di Canizzano e un prete ortodosso, e hanno fatto la messa, improvvisato con un microfono, e tutti dicono la messa. A un certo punto, verso la fine, anche piovuto un po', prima c'era proprio una macchia in cielo di celeste, celeste e tutto scuro, tutto scuro intorno. Insomma, ma detto, la messa è stata detta in italiano. Da nostra, non l'ortodosso. No, l'ortodosso poi ha detto una preghiera, lui si è visto che si sono alzati in 3-4, si sono alzati in piedi quando ha detto questa preghiera, insomma. Ho capito. E così abbiamo festeggiato, poi ho visto tutto il bacio, la reliquia. Ah. E dopo l'hanno portato via e poi hanno cominciato da un tendone, l'hanno aperto e ha cominciato a mangiare e bere da dolcini. Fino a che ora? Fino all'una, alle due di notte? No, io sono andato via alle 8:30 per dire la verità, ma Madonna, c'era ancora gente, insomma. Ma presto, non è stata una serata? No, è la comunità di Canizzano che ha la custodia di questo santo, che non è nominato, che non è conosciuto tanto, che non è sentito anche. Volevo chiedere a Don Giorgio, il parroco del Duomo. Perché visto questo santo se ne parla anche poco. Io non l'ho mai sentito nominare. E credo che sia anche ne parlo perché sia anche una novità per tanti, insomma. E penso proprio di sì. E di andare a vedere questo oratorio, insomma, che è vicino a una villa veneta del 1700, Erotti. E proprio di fronte al cimitero di Canizzano. Comunque funziona normalmente sta chiesa? È chiusa, non so quando la aprono, ma la villa la casa di questo Manoncello è proprio di fronte all'oratorio, perciò credo sia disposto. Sono due fratelli, perciò sono disposti anche ad aprire e far vedere, insomma. Meloncello, e Meloncello mi viene in mente, non c'era una fabbrica, un negozio che avevano della ceramica? Della ceramica, sì. Ma che siano gli stessi? No, lui credo che lavori da lui, mi sembra di aver capito. Insomma. Ah, ho capito. Quindi avete fatto festa il 2 giugno? Abbiamo fatto festa. Avete festeggiato la festa della Repubblica. Così strana, perché la Repubblica è un giorno di festa logicamente nazionale, sì. No? Ma loro il 2 giugno fanno questa ricorrenza di una messa cattolica ortodossa. Ma ogni anno? Ogni anno. Ah. E noi siamo inseriti quest'anno così perché per ricordare il nostro amico Giorgio, ho chiamato un po' di Giorgio, ho chiamato degli amici suoi. Che ci trovavamo sempre in taverna e lo abbiamo ricordato così, insomma. Quindi diventerà una cosa abituale nel corso degli anni? Penso di sì, che io ritornerò perché mi sono divertito. Ho chiamato un amico che abitava lì a Canizzano. Sì. Lo trovo là, dice: ma sa tu che vivo qua, non sapevo niente e ho piacere di essere venuto qui. Ha telefonato, io sono venuto a vedere anch'io. Scoperte veramente strano, sì. Ecco, questa è stata la prima festa di giugno. La prima festa di giugno, ecco. Mentre che la seconda festa è la nostra sagretta tradizionale, il Beato Erico, il 10 giugno. Nella chiesetta in via Canova, sull'angolo di via Canova, il tempietto del Beato Erico, che è ancora beato invece di essere santo, perché mai? Lui ha fatto miracoli in vita e anche 400-350 dopo la morte, dicono, insomma. Siccome anche lui non si sa quando è nato. Ah. Non si sa, dicono Enrico da Bolzano. Non si sa, era sposato con un figlio, quando sia morta la moglie, quando si è sposato non si sa niente. Si sa che è morto nel 1315, il prossimo anno è un anniversario. Insomma. Sì, quanti secoli sono passati. Ne parlerò per questo anniversario. Il discorso, noi facciamo la sagretta ogni anno, porto pagnottine di paninetti che vengono benedetti, e poi tutti gli offerenti se le portano a casa, insomma fanno un'offerta e si portano a casa il pane benedetto per del Beato Enrico. Beato, ma non è che fa nella piazzetta niente? Nello spazio davanti alla chiesa arrivano i poeti. Arriva la Bruna Balzalotto con 7, 8, 10 poeti. Con tutti i poeti del sì. Allora metto fuori le panche o le sedie e ognuno dice la sua poesia, la declama, tante per Enrico, tante di Treviso, tante di San Liberale, come perché vengono anche a San Liberale, ma quest'anno pioveva. Eh sì, difatti volevo venire anch'io a San Liberale, ma dopo pioveva e non sono venuta. Quindi ne sono venuti parecchi a leggere poesie. Sì. Sono venuti parecchi, sono divertiti, anche perché ognuno si rimanda all'altro, insomma la Bruna fa sempre la foto per tutti, la pubblica nel suo giornaletto Il Sil, e Don Giorgio ci ha fatto una bella messa, una bella predica. Nella predica, alla fine della messa, sono intervenuto anch'io, perché con questo anniversario del prossimo anno vorremmo, come congrega, cercare di restaurare una edicola che è in via Sant'Agostino, nello slargo di via Sant'Agostino, che è una edicola in marmo, con tutto l'affresco smarrito, tutto deturpato, insomma. E voi vorreste rifarlo? E io vorrei, se la sovrintendenza autorizza una certa spesa che si può fare, riprenderlo, perché lui ha fatto il miracolo, che c'è scritto anche, si vede, V. Sartor, un sarto che gli aggiustava il saio, se punto il pollice grosso con un grosso ago. E allora è arrivato Beato, è l'Erico, comunque Enrico, Le ha baciato il dito, l'ago si è sfilato ed è guarito subito. Guarda. Allora lui ha fatto fare questo affresco e lo ha riquadrato col marmo, insomma, con edicola in marmo, insomma. Questa è una festa che fate sempre, insomma. Sì, e allora vorremmo riprendere a Treviso, viene anche una parte di la nostra città di Treviso, credo che sia stata una delle città più dipinte del mondo, perché ogni che veniva fuori da una porta alla mattina era imbriacata di tutti i vari affreschi delle case diverse, o delle Madonne sotto i portici, nessuno ha le nostre Madonne sotto i portici. C'è la Madonetta, che Emilio Gallina ha scritto una poesia sulla Madonetta di Santa Maria Maggiore, quella sotto il portico. Madonetta, sì, che è fuori, che si vede sta Madonetta. Sì, sotto il portico, sotto proprio il portico, di Santa Maria Maggiore, di un pittore canotto, anche, E quindi il prossimo anno, grande festa, allora. Pensiamo di fare questo omaggio alla città, ma ricordo anche del Beato Erico, insomma. Ho capito, quindi siete... Quando è morto, si pensa, hanno sentito suonare le campane, nessuno le ha toccato le corde. Quando è morto, tutta la città, le campane hanno suonato, insomma, No, ma sembra impossibile. Cioè, dicono, è la leggenda, è un miracolo, ma insomma... qualcosa di vero c'è sicuro. Insomma, però è bellissimo. Viene festeggiato a Biancade, perché aveva una casupola lì, abitava su una casupola. E anche c'è un piccolo oratorio, sempre Beato Erico. E poi in via Canova un notaio gli ha dato un tugurio lì, che è una cosa, e lui è rimasto là sempre col suo saio e sempre col suo... di povertà, insomma. Ma cavolo, sentire le campane suonare. Dicono che una volta in Piazza Duomo abbia piovuto e l'unico che aveva il saio asciutto era lui. Cioè, piova andava in altre parti, non lo toccava a lui. Guarda che sono cose che dirle così... Adesso ci può anche ridere o scherzare, testimonianze che sono anche simpatiche e belle. Queste sono le feste che sono già passate. E adesso ci ascoltiamo un'altra bella canzone. E poi parleremo delle feste future, perché ce ne sono qui feste. Allora, la seconda canzone in programma è cantata da Adamo ed è intitolata Accanto a te l'estate. Accanto a te l'estate scorrerà come un sospiro, come una carezza. sta accanto a te, l'estate canterà come in un sogno, come un dolce poema. Mi sento un marinaio quando i tuoi capelli ondeggiano sul mare come alghe bionde, e mi sento gran mago quando con un bacio accendo un sole al cielo della tenerezza. Accanto a te l'estate ballerà nel vento con le bianche vele sull'acqua d'argento. Accanto a te l'estate vestirà di festa e ci regalerà i gioielli del sole. Accanto a te l'estate volerà leggera e ci sussurrerà mille parole d'amore. Sarà la nostra estate, per noi due il mondo si dondolerà ad un raggio di luna. Ed ogni notte, amore, io ti cullerò e t'addormenterai in un manto di stelle. Accanto a te l'estate passerà, lasciando nell'aria una dolce musica, ma accanto a te l'estate durerà come un incanto per tutta la mia vita. Eccoci di nuovo in studio con il nostro architetto Giorgio che ci parlerà adesso delle feste che verranno a venire, ecco, ma sempre nel mese di giugno. Allora, siamo stati invitati, io dico costretto, anche perché dopo, di organizzare la festa di Buranelli. Sì, ma c'è sempre stata, però. C'è sempre stata, ma l'anno scorso l'ho portata avanti, vorrei dire, al 99, cioè da solo, e mi sono stancato, mi sono fatto male, cioè, non lo faccio più, avevo giurato dentro di me di non farla più, insomma. Allora con la Conrica ho detto la facciamo un giorno solo, il comune vuole due giorni e insomma cerchiamo di due giorni, insomma, di fare questa festa, insomma, perché è una festa simpaticissima dei nostri tempi. Adesso organizza feste ogni giorno ormai, sì, a Treviso. Beh, sì, sì, per questo. E perciò la faceva la Tervisium. Poi finita la Tervisium l'ha presa in mano poi il comune, dandola in mano a Di Chiara che era della Tervisium e Malossi che della Tervisium. Ah, Malossi faceva tanto. Ah sì, Arturo, sì, appunto, si era divisa come la Tervisium, allora così portavano avanti questa festicciola. E poi siamo subentrati noi della congrega, perché Di Chiara è il nostro priore, di fare questa festa, insomma, l'abbiamo sempre fatta così. Non è facile, è difficile ormai trovare i gusti, trovare le piazze Rinaldi e le piazze San Vito, sempre svuotarle, levar via plateati, c'è ormai c'è un'altra vita della città, insomma. Però sono 35-36 anni, insomma, che viene fatta, sì, questa festa, perciò ha una certa tradizione. Noi siamo della Congrega del recupero delle tradizioni e cerchiamo di farla. E la fate e perciò sabato 28 e domenica 29 c'è un palco in piazza Rinaldi e un palco in piazza San Vito, Rinaldi saranno è musica pura, insomma, concerto in concerto, mentre di qua è musica da ballo e si può ballare in piazza San Vito, ballano sempre, insomma. Quindi voi fate concerto di musica classica da una piazza? No, classica, ma anche moderna o jazz. No? Ho capito. Io abito in quella piazza lì, perciò vorrei che a mezzanotte sia finito, perché perché c'è anche un avvocato lì vicino che ci dice: Giorgio, fa quel che te vuoi, ma basta che prima di mezzanotte sia finito, insomma. Sì, un avvocato Ciprandi anziano. È un amico, Giorgio Ciprandi è un amico, e allora agli altri non che fa far niente, brontola qua così, l'amicizia, insomma, che ci mi permette di portare avanti anche questo compito, insomma. E allora raccontiamo ai nostri ascoltatori? Abbiamo l'aiuto della colonna, dell'Odeon La Colonna, che è il ristorante nuovo sotto il portico. Si mangia anche bene. Si allarga sulla piazza, e perciò per due giorni c'è un bel ristoro, insomma, e anche un bel mangiare, ci sono anche i servizi e tutto quanto, perciò ne abbiamo così. E mentre che parteciperanno ancora, adesso sono in attesa sia per il primo pomeriggio di sabato e il primo pomeriggio di domenica, per altre persone che vengono a suonare anche solo o fare una danza di flamenco, qualche cosa con la Carla e la Elena Povellato, vediamo cosa possono fare, insomma. Ah, ma sì, mi pare che la facevano anche l'anno scorso, però. L'hanno fatta l'anno scorso. Ma era non c'erano spazi per anche cambiarci, bisogna tutto, loro vogliono sapere qualcosa di più, meglio, insomma, di vedere, cioè vogliono dopo cambiarsi. Suoneremo, ci sarà un fisarmonicista che suona la chitarra, il maestro Francesco Paronetto, che viene con noi con la congrega, troveremo uno che racconta barzellette così, e poi queste orchestrine che suonano, insomma. Era un allievo di Smiazzetto, di Angelo. Angelo veniva tutte le nostre segrete. Ah sì? Tutte le si veniva a suonare, e dopo cantava con la muscoletta. Veramente. E adesso c'è questo Francesco che ci segue abbastanza ed è bravo, insomma, così. Sì, mi pare appunto d'averlo. Poi aveva anche sempre una specie di tenore Smiazzetto che andava con lui in giro, perché lui suonava, che l'altro cantava, insomma. Il mio zitto era un bravissimo personaggio. Io ho messo a posto anche a casa sua, abitava a Santa Maria del Rovere, dietro la caserma Salsa lì. Ah, da quelle parti lì abitava. Sì, era una casa poi sua, che è nata in eredità con i fratelli, tutti quanti, insomma, ci siamo parlati. Era morto un fratello, gli era anche morto prima. Comunque Smiazzetto era una personalità. Io non correva neanche a dire niente, io si presentava. Arrivava alla sagretta e si metteva a suonare a Sant'Agostino, a Santa Lucia, a San Martin. A lui piacevano queste cose qua, veramente. E ha tirato su anche una bella orchestra, la Filarmonia. Ma tutti di ragazzi giovani? Sì, tutti di ragazzi giovani, ragazzini, sì, io conosco. Ecco, allora ne parliamo e ho piacere di ricordarlo. Smiazzetto, anch'io lo ricordo volentieri. Forse l'abbiamo perso anche nella memoria, e qua nessuno si ricorda più niente dei bravi trevigiani, insomma. Purtroppo vengono avanti i giovani non si ricordano più di quello che era, e quindi ci restiamo noi, insomma. Sì. Finché il Signore ci lascia la salute e il cervello a posto per poter fare, per poter ricordare. Comunque io Smiazzetto lo ricordo sempre ho conosciuto anche dei suoi allievi e anche la sua orchestra Filarmonia, veramente tante volte mi sono veramente commossa perché suonavano. Perché era bravo lui, che aveva insegnato i bambini, sa che era qualcuno che andava fuori, ma lui sapeva, sapeva portare avanti tutto il discorso. Sì, infatti, veramente. L'ha nominato una volta, lo nomina qualche volta la Maria Pia Zorzi quando presenta che fanno i concerti. Fanno i concerti, ecco, sì, sì, la Maria che... Zorzi, e quella abbiamo premiata col San Liberio. Ah, sì? Sì. Avete... questa spiglia di San Liberio, gli abbiamo dato un premio, è stata simpatica, perché ha detto, come a me, cosa c'entro io? Così, no, ti diamo un distintivo di merito ai trevigiani. Eh sì, perché... Vediamo quella che vende le caramelle alla Flavia, l'altipografa di Piazza Pola, e un sacerdote di Padre Oblati. Ah sì, chi è? Don Ernesto, no? No, Don Ernesto è in carrozzina e non sapevo come portarlo, Don Ernesto Soligo. Sì. È davanti a casa vecchia di Chiesa Votiva. Io l'ho conosciuto, si chiamava Maggiore. Conosce tutti. ma era una persona molto, veramente una persona... No, qua è Don Lino Cusinato, mi aveva dato il premio, questo distintivo di merito, insomma. Anche Don Lino Cusinato? Sì, sì, sì, di Lio Blati. Don Lino Cusinato. E c'era forse era un Don Lino, ma non era Cusinato, il parroco di Sant'Angelo. No, era Don Lino, ma non Cusinato, no. Sì, infatti. Comunque, allora, il programma di questa festa, cominciate Il programma con... di questa festa, cominciamo cicchetti e spritz. Alla mattina? No, su mezzogiorno, insomma. Dopo sera c'è da mangiare, di qua e di là, c'è la musica, l'orchestra e così si fa. L'anno scorso ho avuto il piacere di avere un amico mio grande, che è Giorgio Cavazzano, che è il più grande disegnatore Disney di Paperino e cosa, si è messo lì in piazza San Vito, aveva dei fogli, io davo un foglio girato di lui che presentava, ha disegnato una trentina di disegni per tutti i bambini che passavano. Cosa vuoi, vuoi Pippo, vuoi Topolino, se posso averlo anche quest'anno avrei molto piacere, insomma. E dopo chi avete invitato quest'anno, come oltre personaggi al di fuori qui dal di fuori ormai l'orchestra che si chiamano i Simple Beat, insomma, che sono dei nostri trevigiani, sono orchestre però di musica moderna, di musica abbastanza, ma anni 70, insomma. Dopo ci sono il comune chiama anche un'orchestrina più moderna, insomma, di tipo jazz, ma sono domenica pomeriggio. E di musica liscia non fate niente? E di liscio abbiamo questi distinti beat che sono anni 60-70. Ah, i distinti beat, sì, lo so. Si chiamano Simple Beat, adesso si chiamano. Ah, come adesso? Simple Beat. Perché il capo, mi pare, il direttore è Roberto Forese, mi pare che si chiami. Beh, che è Roberto, io ho parlato con Silvio e con Orlando. Ah, ecco, Silvio è il cantante. Silvio è il cantante, io ho concordato con Silvio, sì. Ah, ecco, ciò che Roberto sono in cinque più hanno due aiuti o la musica, insomma. Sì, sì, ma dicono che suonano veramente bene. Sì. Bravi. Sì, e quelli quando ci saranno. Allora, la mattina cominciate verso le 10, sicuro, non prima. Sì, non prima, no. Allora cominciate io devo imbandierare tutti quanti i Buranelli, la piazza San Vito e parte della piazza Rinaldi. Con anche le lampadine sotto il portico Brunelli verrà illuminato. Penso di portare anche dei librai tipo Compiano o anche, non so se Compiano? Feltrinelli, sì. Anche lui? Ha una editoria sua, sì. Perciò è anche Feltrinelli a vedere se partecipa, sino Vanzella e De Vanzi, la sua è anche lui editore, perciò può venire. Vediamo, perché una volta sono arrivati i vigili e non potevano vendere. Ah, ho capito. Invece ho detto, cosa vengono a fare qua? Mostrare libri solo, insomma. Voi dovevate dirmi sì o no. E allora dopo la sera avevano già il permesso, ma la sera sono andati via un po' scontenti, insomma. Oggi si legge poco. Bisogna leggere invece, perché io il computer non riesco a leggerlo. Ma il libro lo leggo, lo sfoglio, lo tocco, devo toccarlo per leggere. Io leggo molto, ma molto, ma proprio sono, ma fin da, da quando ero ragazzina, insomma, ho sempre letto tantissimo. Ho cominciato con i libri di Dellì, non so se si ricorda lei, che erano i libri che leggevano le ragazze giovani, insomma, erano quei libretti. Ma io ero soprattutto col Cronin a casa mia. Anch'io c'era Cronin, ho letto Cronin, tantissimo del Cronin. Tutti i libri del Cronin. Io li ho letti tutti. Poi ho trovato invece gli americani, sa, con furore. Di Steinbeck. Ma c'era una cosa che sembrava la mia vita quasi. E poi ho letto un po' di russi, che papà aveva dei libri. Ah, io i russi li ho letti, Tolstoj e Dostoevskij. Pesantotti, ma li abbiamo letti. Eppure ero più giovane e non mi erano pesanti. Non so, forse adesso che... Perché avevamo bisogno di sapere. Adesso invece tutti, c'è la televisione, tutti credono di sapere tutto, invece non sa niente. Comunque ho letto Umiliati e offesi tutti, li ho letti parecchi proprio, insomma. Il primo ricordo che è stato Delitto e castigo. E vabbè, adesso noi ci fermiamo, che poi parliamo delle altre feste, e ci ascoltiamo la terza canzone in programma, che è La casa in riva al mare, cantata da Lucio Dalla. Dalla sua cella lui vedeva solo mare ed una casa bianca in mezzo al blu, una donna si affacciava, Maria, è il nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava, quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia. E sognò la libertà. E sognò di andare via, via, via. E un anello di già. Lunghi silenzi come sono lunghi gli anni, parole dolci che si immaginò. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria. Vedrai che bella la città. E sognò la libertà. E sognò di andare via, via. E un anello vide già sulla mano di Maria. E gli anni son passati, tutti gli anni insieme. Ed i suoi occhi ormai non vedo più. Disse ancora, la mia donna sei tu. Eccoci di qua, ancora in studio, e col nostro architetto che ci racconterà. Che continua ancora a parlare di un'altra festa. Un'altra festa che coincide di fare la domenica 29, ed è una festa che la Congrea, io, insomma, assieme agli amici, abbiamo rievocato. Si faceva una festa il 1 maggio. Festa dei lavoratori, era la corsa dei camerieri. Ah sì, l'anno scorso l'ho vista anch'io. Ecco, la corsa dei camerieri si svolgeva fino agli anni 60, 65, forse 64, non so, si svolgeva per le piazze della città, cioè partivano dal Duomo, sì, o i più giovani, poi i più vecchi partivano, facevamo due andate, arrivavano fino alla stazione, giravano la stazione e tornavano su in piazza, arrivavano in piazza. Mm. Io invece parto dal Duomo, dal Battistero, faccio via Cornarotta, Municipio, via Bianchetti, porto dentro il Can Maggiore, vado giù fino ai Noli, torno su verso la piazza, Piazza Esperia o Piazza Indipendenza, vado giù in Piazza San Vito, perché c'è anche la, per quello, sì, c'è la festa, ma di mattina non c'è nessuno. Poi continuo verso via Palestro, vado fuori verso Piazza San Leonardo, torno dentro per la pescheria, sì, vado sul il cortile di San Parisio, vengo San Francesco, Campana e arrivo in Piazza Rinaldi, mentre altrimenti mi fermavo, altro giro, facevo il rovescio a Piazza Rinaldi e arrivavo là in pescheria, alla corte di San Parisio, insomma, dove ci sono i banchetti che mi servono per appoggiare i vassoi di frutta e di vendoli, insomma. Ha vinto un giovane l'anno scorso? Questo sì, sono un giovane, ha vinto anche l'anno prima, aveva vinto, insomma. Sempre quello? Sì, è di Pino, del ristorante da Pino. Ah, insomma. Grazie. E, cioè, gamba lunga, alto, giovane, sì, e al passo. E cosa, ecco, cosa la vinco? Cosa è che la corsa ha vinto un premio in soldi, un sifone di Seltz serigrafato da Barbieri, col nome, con la coppa, disegnato, sì, primo, è una felpa, insomma, un oggetto dei soldi e una coppa. Quest'anno, cioè, voglio fare questo trofeo, insomma. Oh, ho capito. Un e cosa volevo dire, ecco, per due anni non sono riuscito, qualcuno che era vicino a noi ha dato in Camera Commercio e ha fatto un logo della gara e corsa di camerieri. Ah. E allora per due anni io non l'ho fatta perché non mi sentivo, non sono riuscito anche a smuovere il comune, insomma, non so che patteggiamenti ci sia, ma non voglio neanche discutere. Il discorso è che quest'anno ho dovuto fare, ho fatto un logo con i vecchi camerieri, è scritto Gran Premio Camerieri in Treviso. Ho capito. In modo che io credo di essere il continuatore, che ho già una lettera in mano della vecchia Camera di Commercio, sì, Camera del Lavoro di una volta anni 50, e che mi hanno detto che forse stanno che viene, magari continueremo a farlo del 1° maggio invece di farlo al tempo di Buranelli. Sì, perché ho due feste contemporanee. Sì, sì. L'ho fatto in Treviso perché così sono l'unico che dovevi fare, siamo gli unici che dovremmo farla, questa, no, che non sia un duplicato. L'anno scorso hanno fatto due corse di camerieri. Quest'anno invece fate solo la vostra? Credo che sia solo la mia, il comune abbia capito, non l'abbia più dato accesso ad altri, insomma. Anzi, sì, appunto, sono ripetizioni che non hanno senso. Anche stupide. Poi questa gara di camerieri di una volta, Agebella col vassoio, con la loro giacca bianca o nera, col fifì se ce l'hanno, e devono tenere il vassoio con due mani e spandere il meno possibile, ma devono camminare, non devono correre, no? Ah, camminare, non devono correre. Devono camminare, oltretutto con scarpe normali, non con scarpe da ginnastica, cioè, vieni tutti dopo a fare una corsa. C'era anche una cameriera, mi pare, con i tacchi l'anno scorso. Ecco, cameriera con i tacchi, manco male, i tacchi è il suo premio solo per quello, insomma, capisci? Perché, insomma, cioè, non devono venire sportivi, insomma, deve venire la casta o la categoria di camerieri, era una cosa molto bella una volta, insomma. No? Sì. C'è anche, non so, al ristorante Il Perché a Roncade, c'è Pino che con tutti vestiti bene, ci sono delle belle persone insomma, sì, che si possono fare, ecco, insomma. Sì, sì, e vediamo di riuscire a fare anche questa, insomma. Questo è il discorso più bello, perché la storia deve continuare, la tradizione. Io sono andato in archivio, anche il comune ha perso anche dei fascicoli anni 50, insomma. Sono andato invece all'archivio a San Nicolò E ho trovato praticamente gli anni 50, mi sono fatto fare delle fotocopie e quei nomi vecchi, insomma io avevo un diploma vecchio anni 50, un certo Bollis, adesso l'ho cancellato il nome e lo faccio per i camerieri di adesso, insomma il diploma. Ho capito. Diamo un diploma, sì, insomma. Comunque, tutte cose simpatiche, sì, insomma, da fare. Appunto. Ma quella l'ha fatta la domenica mattina, mi pare, o no? Domenica mattina dalle 11 a mezzogiorno, cioè al limite la corsa, la camminata, sono un quarto d'ora, insomma. Io pensavo che la faceste solo per i vecchi camerieri, cioè i camerieri di una certa età. Due camerieri mi arrivano, uno è del Devil Pub di Varago, e arriva in smoking, arriva. È vecchio, ma insomma non è proprio vecchio, però mi arriva in smoking. E poi mi arriva Franco Doratiotto qui, che ha un locale in via Verniera a Treviso, e mi arriva vestito di bianco, anche lui in tenuta da cameriere, da cosa. Allora sono due anziani che li premio con una litografia di Nieto. L'anno scorso gli ho dato, perché meritano, solo abbiamo fatto partire prima, perché siano visti, che non si confondano con poco gli altri, insomma, no? È la categoria proprio di camerieri, insomma, questa. No, perché dico, vabbè, i giovani è chiaro che hanno il passo più svelto e più lungo, ma ci sono anche questi camerieri di una certa età che veramente hanno dato tanto di sé, perché il cameriere, per fare bene il cameriere, deve avere diverse doti, il portamento. Una volta avevano il tovagliolo sulla manica atteso, il vassoio con la telima con la destra, sì, e stappavano, avevano il selz con l'acqua minerale, quel selz invece dell'acqua minerale, no? Sì, era. E servivano il Campari soda, lo stappavano davanti a mio papà. Io a me piace il Campari soda perché lo beveva mio papà. Ah sì? E lo stappavano davanti, lo versavano e poi la spezzata di selz. E si ricorda della gazzosa? La gazzosa, sono qua a Baita ancora. Adesso non c'è più la gazzosa. No, c'è la gazzosa. Non c'è più quella di prima. C'è la spuma. C'è la gazzosa, c'è il chinotto. Ma io la bevevo da ragazzina, da bambina, mi ricordo, con quel caldo. Ma adesso ho provato a bere la gazzosa, ma non è più quella. Non è più quella. Quindi domenica mattina 29 c'è queste due feste che non si disturbano, perché la domenica le altre cose cominciano a mezzogiorno e mezzo, i pranzi o meno, insomma non c'è musica o meno, ma forse la ravviva anche un po', insomma. Pensavo, l'anno scorso l'ho fatta così perché ravvivava anche la festa di Brunelli, insomma. Ma la gente piacciono queste cose, perché anche si vede chi vince, anche l'abilità, insomma, dei camerieri. Sì. Dopo di questa finisce, no, vero, non sono finite le feste d'estate. No, d'estate cominciano le feste, ma d'altra parte, sa, c'è un attimo di respiro, perché l'agosto è il soleone e non si fa niente, ma anche luglio si porta avanti delle cose. Noi abbiamo sempre un primo martedì, per esempio, del mese, che facciamo una festa al mercato tutto all'aperto, e perché anche là ricordiamo un amico, insomma, ma per dire ci troviamo, l'importante è trovarsi. Ci raccontiamo sempre le stesse cose, portiamo anche le mogli sempre le stesse cose, ma è il divertimento di essere assieme. Di essere assieme, proprio, questo è il vero divertimento. E andiamo a telefono, vieni tu, sì, buondì, ti nomino, posso, 20, 30, 40, 50 persone, insomma. Sì, ma è sempre il piacere di stare insieme. Di stare insieme, ecco. Sì. Adesso noi ci ascoltiamo. E adesso gli amici, posso dire che gli amici hanno 3.000 amici, i nostri figli, ma non li conosco nessuno, li hanno sul cellulare e basta, insomma. E adesso parlano tutto in codice. In codice. Sì. Allora, ci ascoltiamo un'altra canzone, poi così vediamo di... Allora, ci ascoltiamo, cantata da Santino Rocchetti, Fiore di mare. Fiore di mare, nata lì, figlia di un'onda, tu farai le mie giornate. Grandi e vive come te. E sei qui, cuore d'estate, che trovai in sogno un'onda. Non le ho mai più scordate, quelle ore insieme a te. Eccoci di nuovo in studio per l'ultima tranche e diamo la parola al nostro ospite. Sempre a Giorgio Fantin. Sì. E volevo ricordare una cosa. Pochi sì. giorni fa è venuta una signora, mi aveva telefonato perché voleva da me un libro fatto nel 77, 1977, sì. che io l'ho chiamato Treviso l'ultima, fotografico. Sì. L'ho fatto con una, eravamo in nove, con Battacchi, con un fotografo comunque che non conosceva Treviso, io non lo conoscevo, un giovane ragazzo sì. Da Conegliano, che non beveva e non conosceva Treviso. Ah. E tempo due mesi, marzo, aprile, settembre, ottobre, là così, insomma, quattro mesi e mezzo, cinque mesi, insomma, abbiamo impaginato, abbiamo fotografato dei personaggi di Treviso che io dicevo, me le devi fare nel posto dove lavorano, dove sono, no, facce, no, mi interessa facce, mi interessa la persona, come sono. Sì. Allora mi ricordo che una pacera che vendeva frutta in via Fra Giocondo, si è tolta il come grembiule, quasi ha fatto quasi una specie di spogliarello, e l'ha fatta la successione del spogliarello, e dopo ho sentito un altro da farmi, mi occupa e Sofia. Tutti questi trevigiani, l'ho chiamata Treviso l'ultima perché siamo andati per fare una foto alla Contessina Rinaldi. E la suora mi dice a San Giuseppe: ma state scherzando? No, ma suora, l'abbiamo seppellita ieri. Oh, sì. E mi ha dato un biglietto da visita con lo stemma di Contessina Rinaldi. E dopo con Giorgio Pantaleone siamo andati a vedere tutti nei soffitti, tutti i suoi vestiti vecchi, ma erano tutti cianfrusagli, insomma. Però ho un libro con la firma di Vittorio Emanuele III che gli fa la Conte Rinaldi. Ah. E allora l'ho chiamata Treviso l'ultima, l'abbiamo come sbiadita, la fotografia si è sbiadita, l'abbiamo chiamata ultima. Quanti anni avrà avuto? Avrà avuto 83-84 anni. Ah, non è morta vecchia. No, ma quel tempo là è 77, è morta. Ah, beh sì, ormai. Sì. E praticamente in questo libro c'è, non so, la cantante Amelia Benvenuti, c'è Mario del Monaco, c'è Mazzotti, c'è il sindaco, come si chiama? Mazzarolli. Ci sono di personaggi veramente, Barbizan, Coletti. Ah, Barbizan. Tutti quelli che io che conoscevo. Poi c'era l'uomo che vendeva formaggi in pescheria. La mamma dell'Ele, la fruttivendola con un po' di baffetti. Quattro nomi aveva, che vendeva il banchetto della frutta in piazza Ancilotto vicino alle beccherie. Ah sì, piazza di... Dopo Lao Mantelli che suonava il violino fuori sulla porta di casa, avete questa la mia casa è aperta al sole, all'amicizia. Un piatto di... Sarebbe bello commentarlo un pochino. Sarebbe bello commentarlo libro, perché sono i trevigiani. Dopo ne hanno fatto altri due o tre libri, sì. Sulla falsa riga del mio, ma di gente brava ma ben più modesta. Quella lì era la Treviso di una volta, insomma. Sì, ecco, a me piace tanto ricordare queste cose. Ed perché... è venuta in studio, gli ho fatto vedere questo libro mio che ho, perché ho detto, stavo cercando, però le faccio vedere un libro meraviglioso che mi ha mandato questo mio amico Francesco Moretti da Parigi, il fotografo, sì. Che aveva 50 persone sotto di lei, lui era, sì, artista, scultore, pittore, fotografo, è bravissimo, insomma, anche adesso. E lei ha ripetuto, io le ho mandato su tutte le negative, ha fatto un libro del doppio del mio, più bello, più grande, in bianco e nero, eccezionale, il mio sarebbe da buttare via. Ah, il mio è un quadrato bello da tenere con le firme da tanti. Ci siamo fatti dopo una cena alle beccherie con tutti i personaggi. Beccherie. E questo coso ha messo Italy 1970, l'ha chiamato. Ah. Senza mettere però i nomi delle persone, perché io ho mandato tutto all'indice. Chi non conosceva queste persone doveva andare a vedere nell'ultima pagina, pagina tali tali, c'è quella ho foto. Ho capito, che bello. Adesso... Perché è Trevisani, i Trevisani che non doveva conoscere Treviso, perché lui è andato venduto tutti quanti. Ma i Trevisani, chiaramente un libro del genere, perlomeno chi ama le tradizioni se lo compra sicuramente, perché sì, io sì. Ho visto che quando ho portato a casa quello che mi ha dato lei, mio figlio se l'è portato a casa subito. Per cui sì, i Trevisani. E noi invece purtroppo dobbiamo salutarci, ormai... vedere, ma ne parleremo ancora di questa Treviso. Sì, perché è bello sviscerare anche questo libro qua, parlare dei personaggi, parlarne un pochino a fondo, perché se ne parla ma così, superficialmente, invece ci sono delle persone che veramente vale la pena conoscere a fondo. Di ricordare anche in qualche volta, perché ormai ci hanno anche lasciato ormai. Sì, sì, ma appunto per questo che ci hanno lasciato, ricordare chi erano, cosa facevano, la loro personalità, insomma, tante cose, ecco. Beh, io architetto le auguro, non so perché il 29 forse non sono a Treviso, ma se sono a Treviso spero di fare una scappatina a vedere. Cerchiamo di vederci, sì. Di vederci, sì. Comunque io la ringrazio della gentilezza e di aver accettato sempre l'invito, e adesso quando riprenderemo ci faremo ancora un po' di compagnia. E faremo compagnia agli ascoltatori. E anche Antonio si arriva. E anche certo, Antonio si arriva, forza. Intanto lo salutiamo. Sì, sì. Ecco, di nuovo grazie. Grazie anche a voi. E a tutti gli ascoltatori. Anche a Edi facciamo grazie. Anche a Edi, Bedi, e anche a Mirko. A tutti sì, anche questi a Mirko, collaboratori sì. Che insomma hanno con pazienza ci seguono sempre. Ok, ok. E io come sempre dico il mio ciao ciao. Ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.